Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Il mito del principe azzurro ha sconvolto l'esistenza di tutte le donne del mondo che fin da bambine hanno sognato che arrivasse su un cavallo bianco, pronto a salvare la vita alla loro principessa in difficoltà e a condurla al castello. Proprio come succede alla più moderna delle Cenerentole, Pretty Woman. E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei? Che lei salva lui. La musica di sottofondo era quella della Traviata, la celebre opera di Giuseppe Verdi ispirata alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas figlio. Anche qui c'è una donna, Violetta, assidua frequentatrice dei salotti parigini e dalle facili tentazioni, che viene salvata dal suo principe azzurro, Alfredo. Perché il principe azzurro è ovunque, in tutte le storie d'amore che fanno sognare, in ogni epoca, in ogni cultura. È l'archetipo dell'uomo perfetto, da ogni punto di vista. Perfetto, ma decisamente poco umano e decisamente difficile da trovare senza incantesimi. Proprio alla Traviata si ispira a uno spettacolo di Lella Costa. Disincantata e ironica, l'attrice comica dice che è per colpa delle favole se le ragazze hanno un'aspettativa così alta sull'amore. E baciano molti rospi, sempre in cerca del loro principe. Lo troveranno, ma magari invece di cantare una serenata sotto la finestra, passerà la serata a fare zapping seduto sul divano. Non guiderà un cavallo, ma un'utilitaria. E l'unica cosa azzurra che avrà sarà il pigiama. Ma allora, il principe azzurro bello, coraggioso, romantico, ricco, nella realtà proprio non esiste? La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati dice tutto il contrario. Russia, anno 1982. La crisi economica e sociale è profonda e il regime comunista impedisce la libertà politica. Tutte le risorse vengono spese per l'apparato militare, perché siamo ancora nel pieno di quel conflitto basato sulla strategia della tensione che gli storici hanno chiamato guerra fredda. Il mondo continua a essere diviso in due parti, blocco occidentale e blocco orientale. E bisognerà attendere il 1989 perché crolli il muro di Berlino, decretando la fine del comunismo. Nella grande città di Gorkij, monumentale e imponente, adagiata sulla confluenza del fiume Oka nel Volga, è nata una bambina dal viso tondo e le guance rosa, piccola, graziosa, dolcissima. Il suo nome è Natalia Vodianova. Natalia Vodianova. Gorkij è il nome della città di Natalia, ma in russo significa anche amaro, quasi un cattivo presagio per chi ci crede. Freddo costante che costringe a stare coperti anche in casa. Strade di periferia con binari abbandonati, enormi palazzi tutti uguali, senza balconi, di architettura rigidamente sovietica, tenuti insieme da cemento e lamiere. Fabbriche e centrali elettriche, cani randagi, ogni tanto un tram che passa. Come unico divertimento per chi vive nel quartiere, qualche porta da calcio arrugginita semicoperta dalla neve. Un nulla che toglie il respiro, un'atmosfera di malinconia e tempo sospeso, descritta dai grandi artisti russi, pittori, scrittori, musicisti, cineasti. Uno su tutti? Il regista Andrei Tarkovsky. Il cinema sovietico è ingenuo e struggente, perché l'occhio della telecamera vede quello che gli sta intorno. Fuori dai nostri confini, tutto quello che è una leggera malinconia è visto un po' scaramanticamente, come sfortuna o scadente tristezza. Ecco, per i russi la malinconia, cioè quello stato sovrasensibile del sentire ignoto, che tanto amabilmente chiamano tosca, è davvero l'esatto contrario, cioè è l'esaltazione della sensibilità come migliore caratteristica dell'animo umano. Di certo Natalia non si preoccupa dei riferimenti colti. Le basta guardarsi intorno per capire che nella sua vita non c'è niente di facile. Papà ha abbandonato la famiglia senza pensarci troppo e la mamma si è ritrovata di punto in bianco poverissima, con tre figlie piccole da crescere, una delle quali disabile e problematica. Casa significa pochi metri quadri da spartire tra quattro persone, una cucina a gas e un divano da cui non è ancora stata tolta la pellicola, con l'attenzione per le cose di chi non ha niente. Dalle piccole finestre si vede il tracciato della ferrovia transiberiana a metà strada tra Mosca e Kazan. Natalia ricorda di essere stata piccola, ma non di essere stata una bambina. La mia infanzia è stata molto, come dire, intensa. A dire la verità, io non posso nemmeno dire di aver avuto un'infanzia. Non si mangia tutti i giorni a casa Vodianova. Spesso la mamma è costretta a saltare il pasto per lasciare il cibo agli altri. Ma non si perde mai d'animo. Si rimbocca le maniche e ogni mattina, dopo aver dato un bacio alle piccole, si tuffa nel gelido inverno russo e va al mercato a vendere la frutta alla bancarella che è riuscita a costruire con le sue mani. A Natalia, quando parla di sua madre, brillano gli occhi. Mia mamma era stupenda. Lavorava dalla mattina alla sera per noi. Tornava distrutta, ma non ci faceva mai mancare un sorriso. A volte avevamo soldi, altre volte no. Però ha saputo prepararmi nel modo migliore ad affrontare la vita. C'è una vicina, una vedova che ha perso il marito in guerra. Foulard annodato sotto il mento, grembiule e ciabatte di feltro ormai distrutte, che ogni pomeriggio va a dare un'occhiata alle bambine mentre la mamma è fuori. Ma Natalia è sveglia, in gamba, e sa badare a se stessa e alle sue sorelle. Un fatto testimoniato anche dalla madre Larisa, che ha un forte senso di colpa. Io dovevo stare fuori per lavorare e Natalia faceva tutti i lavori di casa, incluso curare le più piccole. Io lo davo per scontato perché non c'erano altre possibilità, però non mi accorgevo che lei era solo una bambina e io invece la trattavo come un'adulta. Natalia va anche a scuola, naturalmente, e le piace. Forse perché, al contrario dei suoi coetanei, è proprio seduta al banco con un problema di matematica da risolvere scritto a mano sul quaderno a quadretti che riscopre di essere una bambina. La sua maestra, Marina Ilina, la ricorda con grande tenerezza. Era una ragazzina molto indipendente. Le piaceva fare tutto da sola, ma era anche generosa. Si vedeva che era abituata ad aiutare gli altri. Finché, quando ha solo 10 anni, decide che è ora di andare a lavorare. Si alza la mattina alle 4, si lava la faccia con l'acqua gelata, l'unica che c'è, estate e inverno, e va anche lei al mercato. È una vita durissima per un adulto, figuriamoci per una bambina. Il freddo russo è freddo vero, e di frutta se ne vende poca perché la povertà, purtroppo, tocca anche gli altri. Ma il destino, si sa, ha molta fantasia. Natalia è un'adolescente alta e magra, occhi azzurri e uno sguardo che incanta, ma non sa di essere bella. Tiene sempre la testa bassa e ha una forma di pudore che le fa tirare giù la gonna se per caso in un movimento le si alza un po'. Si veste con quello che trova, raccoglie i capelli in un elastico e non si trucca mai. Ma un giorno una cliente molto speciale, Evgenia Chaklova, direttrice di un'agenzia di modelle, intuisce che quella ragazza può diventare qualcuno. Natalia aveva un viso acqua e sapone perfetto e sotto quel maglione informe si intravedeva un fisico statuario, tonico, snello, ma con le curve al punto giusto. Doveva assolutamente cominciare a frequentare i nostri corsi e imparare a sfilare. Quando glielo propone, Natalia è incredula. Ha 16 anni e non le è mai passato per la mente di potersi mantenere per la sua bellezza. Ha sempre creduto che sarebbe andata avanti a vendere la frutta al mercato, non molto di più, come sua madre, come molte delle persone che conosceva. Ma invece, per una volta, decide di pensare a se stessa e di rischiare, di provare ad andare alla scuola di portamento. Sua madre la spinge a farlo, sente che glielo deve, con tutto l'aiuto che le ha dato in casa, al lavoro e con le sue sorelle. È quasi un gioco, non ci crede neanche lei, ma invece sarà il primo passo verso il suo destino. Natalia Vodianova sorride sempre, ma è molto timida e a volte, prima di rispondere, deve prendere un bel respiro. Grazie a Evgenia Chaklova, capo di un'agenzia, inizia a frequentare un corso per diventare modella. È qui che ti insegnano a camminare con le lunghe falcate che si vedono sulle passerelle, ad adottare quel portamento elegante un po' altezzoso che fa la differenza rispetto ai comuni mortali e a gestire cambi d'abito e ritmi vorticosi senza crollare psicologicamente e fisicamente. Lo racconta Alexei Vasiliev, uno dei maestri di Natalia. Io di solito non uso neanche il termine bella, perché è molto relativo e soprattutto essere bella e basta non significa niente. Per fare la modella serve ben altro, servono forza e personalità. Una modella passa da un casting all'altro viaggiando per ore in città che non conosce. Vive una vita molto spesso solitaria e raminga, viaggiando da una nazione all'altra. Tutte cose che all'inizio possono anche eccitare, ma che dopo poco diventano insopportabili. Fare la modella è un sogno per molte ragazze, ma probabilmente cambierebbero idea se conoscessero davvero quanto è duro. Fotografi e stilisti esigenti, dai modi bruschi, competitività alle stelle con le colleghe, anni di provini senza avere risultati, lunghissimi momenti di solitudine e una valigia sempre pronta. Lo racconta così la top model Eva Herzigova, partita da Praga e arrivata negli anni 90 sulle passerelle internazionali. Non è facile per niente, soprattutto all'inizio quando sei una delle tante e ancora tutto da dimostrare. Ci sono tante ragazze più belle, devi lasciare la tua casa, i tuoi affetti. Il lavoro diventa tutta la tua vita, non c'è spazio per altro. Bisogna avere un carattere molto forte per riuscirci. Natalia di certo ce l'ha. Ha un temperamento battagliero e una capacità di sopportazione che ha allenato fin da piccola alle situazioni peggiori. Nulla per lei può essere peggio di quello che ha già vissuto. La sola cosa di cui ha paura è lasciare mamma e sorelle. Ma è un senso di colpa che risolve con la certezza che tutto quello che sta facendo lo sta facendo soprattutto per loro. Per cercare di guadagnare qualcosa in più, per dare la speranza di una vita migliore, meno precaria. Non ha grandi aspettative, Natalia. Il suo non è un sogno di fama, non le interessa la gloria. Il solo motivo per cui va a Parigi è perché spera con il lavoro di modella di aiutare la sua famiglia. È la prima volta che prende l'aereo. È una ragazzina spaesata e tutto le sembra magico. Ha visto Parigi solo in qualche film, ma nessuno che conosce, parenti, amici, vicini, ci è mai stato. Mi sembrava di stare in un film. I palazzi, le luci. Ricordo che mi sono fregata gli occhi per capire se ero davvero lì. L'agenzia le ha trovato una grande casa da condividere con altre aspiranti modelle provenienti da tutto il mondo. Tutte giovanissime, poco più che adolescenti, e con un fisico pressoché identico. Da lontano, tutte magre, senza forme e con lunghi capelli sciolti sulle spalle, si assomigliano in modo impressionante. Capirsi con le coinquiline è complicato. La ragazza di Oslo e l'irlandese parlano inglese, ma le altre no, inclusa Natalia, che sa soltanto il russo. Solo per dividersi i ripiani del frigorifero bisogna spiegarsi a gesti, aiutarsi con qualche disegno perfino. È una vita estremamente faticosa, come racconta Eva Herzigova. Io all'inizio ho anche lasciato, mi sembrava impossibile, ero solo una ragazzina. Poi per fortuna sono tornata sui miei passi, ma nessuno si rende conto della solitudine, dei sacrifici. La vita da modella riesce a sopportarla solo chi è davvero determinato o chi è abituato a ben altre difficoltà. E infatti, mentre le altre aspiranti top fanno fatica a svegliarsi presto la mattina, si lamentano se gli viene chiesto di stare per ore in costume da bagno nella neve per un servizio fotografico e soffrono a dover seguire un regime alimentare rigidamente scritto, per Natalia, paradossalmente, tutto questo non rappresenta niente di nuovo. È da quando è nata che è abituata a fare sacrifici. Lei è sempre puntuale agli appuntamenti, rispettosa, si accontenta di quello che c'è, sempre e ovunque. Anzi, lo accoglie come un dono. La strada è ancora lunga, la concorrenza spietata. Lei non si sente nemmeno all'altezza, ma il destino non la pensa così. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a cavallo del terzo millennio, a Parigi, la Ville Lumière, la capitale dell'amore, ma soprattutto il centro pulsante della moda e del lusso. È qui che convergono stilisti, sfilate, boutique e atelier che, insieme alla tradizione italiana, sono certamente i più raffinati al mondo. Natalia Vodianova, una ragazza non ancora maggiorenne, è arrivata dalla Russia per tentare la carriera di modella. Ha avuto un'infanzia difficile e molto povera, e quello che spera di riuscire a fare è mandare un po' di soldi a casa. Ma la concorrenza è spietata, soprattutto in questo periodo. Il mondo della moda si è accorto delle ragazze dell'est, tutte bellissime, e che per via della loro storia sono molto poco viziate, pronte a sopportare la fatica di un lavoro fatto di sacrifici e dotate di grandi capacità di adattamento. The Russians are coming. Natalia tiene duro, si sveglia ogni mattina prestissimo, si lava la faccia, un filo di trucco, e si prepara per il casting del giorno. A volte ne ha più di uno a distanza di poche ore, il che significa code interminabili per aspettare il proprio turno e un inevitabile e poco consolante «le faremo sapere» alla fine. Quando sono arrivata a Parigi, tutti dicevano «che faccino carino, sembra una bambolina», ma poi non succedeva niente. L'agenzia paga alle ragazze vitto e alloggio, ma non c'è spazio per gli sfizi. Natalia, però, ha come unico obiettivo il guadagno. Deve aiutare la sua famiglia. È l'istinto di sopravvivenza che la muove. Accetta qualsiasi proposta. Dalla foto vicino a un nuovo modello di lavatrice a un servizio sul catalogo di calze di un supermercato. Tutte cose piccole, ma che le permettono di mettere qualche soldo in una busta e spedirlo in Russia. Finché un giorno, in metropolitana, il suo destino è seduto di fianco a lei. Natalia è in ritardo. Sta correndo in agenzia perché pare abbiano qualcosa da proporle. Ha in mano il book, il libro in cui sono raccolte le sue fotografie, i suoi dati anagrafici e le sue caratteristiche fisiche. È la sua presentazione, quello che sfoglia prima ancora di parlarle chiunque voglia proporle un lavoro. In una frenata un po' troppo brusca, il book, pesantissimo, cade addosso a un uomo che sta sfogliando Vogue, la Bibbia della moda. È affascinante ed elegante in modo impeccabile. Il suo nome è Tom Ford. Tom Ford. Please welcome the very handsome Tom Ford. Designer e stilista, direttore creativo di alcune tra le più grandi griffe internazionali, Tom Ford, texano, classe 1961, ha dedicato la sua esistenza alla moda. Quando ero piccolo, guardavo mia madre che si preparava e le consigliavo cosa mettersi. Mi divertivo a scegliere il cappello, i guanti. Ricordo che ho sempre avuto un grande amore per lo stile, per il gusto del bello, perfino da bambino. Se per Tom Ford da ragazzino la moda è un'intuizione, quando a 17 anni si trasferisce a New York e inizia a studiare design e storia dell'arte, diventa l'obiettivo della sua vita. È la fine degli anni 70 e l'atmosfera nella Grande Mela è magica. Tom di giorno segue i corsi e di sera si scatena sotto le luci dello sfavillante Club Studio 54 con quelli che sono i suoi amici, artisti come Andy Warhol e Keith Haring, la pantera nera della disco Grace Jones che si esibisce sui tavoli vestita di lattice dimenando un frustino, John Travolta e una sconosciuta e scatenatissima Madonna. Notti indimenticabili e trasgressive, che lo stesso Tom ricorda così. Io ero affascinato da tutta quella gente. Mi guardavo intorno e vedevo che ognuno aveva uno stile tutto suo, che aveva indosso abiti che magari stavano bene solo a lui. Correvo fuori, mi facevo fare il timbro sulla mano per poter rientrare, tiravo fuori una matita e facevo uno schizzo su un tovagliolo per lavorarci il giorno dopo. Sono anni bellissimi, in cui Tom impara sia dalla scuola che dalla strada. Incontra gente proveniente da ogni parte del mondo, si lascia contaminare dalla creatività dei suoi amici, mescola le arti, disegna ovunque, fa bozzetti su quello che gli capita, tutto gli può servire da ispirazione. E il lavoro costante dà presto i suoi frutti. Prima 6 mesi di stage presso Chloé e successivamente un vero incarico sotto la supervisione di Marc Jacobs, poi diventato direttore creativo di Louis Vuitton, che quell'esperienza con Tom ricorda così. Abbiamo la stessa età e ci siamo divertiti un mondo. Era il periodo delle grandi top model, la moda era in uno stato di grazia, c'era voglia di rinnovamento ovunque e noi eravamo giovani, puntavamo a cambiare il mondo. Lo stile di Tom Ford è un'impronta riconoscibilissima che non lascia dubbi sulla sua paternità. Primo obiettivo, eleganza, sempre e comunque, qualsiasi cosa si indossi. Si può essere eleganti anche in tuta da ginnastica, se la si porta nel modo giusto. Non bisogna essere ossessionati dagli abiti sartoriali, è meglio affidarsi a forme classiche senza tempo che donano agli uomini spalle forti, vita stretta e gambe lunghe. La giacca è sempre lunga, non bisogna lasciarsi convincere da mode passeggere. Secondo obiettivo, semplicità. Poche fantasie, pochi colori mescolati, sobrietà nel modo di vivere e nessuna ostentazione nel modo di vestire. Anche se il look è studiatissimo nel minimo particolare, non deve sembrare che sia così. Per quanto riguarda gli accessori, una vera ossessione per Tom, devono essere pochi e discreti. Amo i braccialetti, ma quelli semplici e piccoli. Cary Grant ne metteva sempre uno assieme all'orologio. Veramente chic. Per Tom, gli americani sono cresciuti con il mito della comodità che non va mai di pari passo con lo stile. Ma questa è un'abitudine da combattere. Ci si sente a proprio agio quando si indossa quello che fa star bene, fosse anche uno smoking. La giacca va sempre allacciata, ma solo un bottone, perché fa risaltare la silhouette. Tutti consigli che possono tornare utili, ma la regola di fondo, quella che conta davvero, è sempre la stessa. Gli abiti trendy si possono portare fino a una certa età, ma prima o poi bisogna crescere se non si vuole essere ridicoli. Naturalmente questo vale se non si è Mick Jagger. In tal caso crolla tutto. Beh, di fronte a una così grande personalità... Personalità è la parola chiave nelle scelte di Tom. Non bellezza, ma carisma. È quello che sta cercando in questo momento. Gucci, in profonda crisi di identità, l'ha chiamato alla direzione creativa per rilanciare il marchio e lui ha in mente di puntare tutto sul nuovo profumo della casa. La campagna promozionale dovrà essere una bomba e la cosa più importante è trovare un volto che la identifichi in tutto il mondo. Sta pensando a questo Tom mentre è in metropolitana. È sua abitudine prendere i mezzi pubblici perché ha imparato che si trae molta più ispirazione dalla gente comune. Come un segno del destino, per colpa di una brusca frenata, alla giovane aspirante modella Natalia Vodianova cade il suo book fotografico. Tom è assorto nei suoi pensieri, ma con un gesto istintivo e quasi meccanico glielo raccoglie. Ed è qui che alza la testa e la vede. Quell'angelo arrivato dalla Russia sarà il nuovo volto di Gucci. A destini incrociati, la sorte ha appena fatto incontrare in un'anonima carrozza della metropolitana di Parigi il direttore creativo di Gucci, Tom Ford, e la giovane modella russa Natalia Vodianova. Lui è stato gentile. Mi ha raccolto il book che mi era caduto. Era molto elegante, stava sfogliando Vogue, ma non potevo immaginare che quell'uomo avrebbe cambiato la mia vita. E invece Ford, con grande intuito, vede negli occhi azzurri di quella ragazza una forza e un'intensità che sta cercando da tempo. Gli è stato affidato l'incarico di rilanciare il marchio Gucci e punta tutto sul nuovo profumo in uscita. In particolare, la campagna di lancio dovrà essere massiccia e strepitosa. Il logo, l'immagine del profumo e il volto della modella dovranno essere unici e indimenticabili. Natalia è la donna giusta nel posto giusto. Le ho parlato, le ho detto chi ero e ci siamo scambiati i numeri. Non mi interessava neanche vedere il suo book. Volevo solo contattare la sua agenzia e cominciare a lavorare con lei. Natalia non crede alle sue orecchie. Non è abituata alla fortuna. Il destino finora le ha sempre riservato sconfitte e difficoltà fin da quando era piccola. Inoltre, nessuno le garantisce che un uomo incontrato in metropolitana possa essere davvero la svolta della sua esistenza. Ma si fida del sorriso di Tom e in pochi giorni i due iniziano a lavorare insieme. Ci si gioca tutto con un profumo. Il mondo si riempie di manifesti. Natalia è sui muri di ogni città, sulle fiancate degli autobus, sulle pagine di Vogue e di tutti gli altri giornali di moda. Tom Ford tiene il fiato sospeso, ma non per molto. La campagna è così potente che diventa un successo internazionale. Tutti iniziano a chiedersi chi sia quella modella sconosciuta con lo sguardo magnetico e un fisico strepitoso. Per Natalia iniziano a fioccare interviste e proposte di lavoro, tanto che alcune le deve perfino rifiutare. È finito il tempo in cui racimolava pochi soldi da mandare in Russia alla sua famiglia per sopravvivere. Adesso può comprare per loro una grande casa e un'altra per sé nel cuore di Parigi. Ma anche se è diventata una super top richiestissima, non dimentica mai gli insegnamenti della nonna. Mia nonna era il mio modello. Mi ha insegnato a non arrendermi mai, a non pensare mai di essere arrivata, anche quando le cose potevano sembrare a posto. Grazie a lei ho imparato a godermi ogni piccola gioia, a vivere il singolo istante, il presente, per quello che mi stava dando. Il successo mondiale della campagna per il profumo Gucci, ideata da Tom Ford, lancia Natalia Vodianova nell'Olimpo della moda. Non è più un'anonima ragazza dell'Est sbarcata a Parigi in cerca di fortuna, una delle tante che sperano di farcela tra passerelle, casting e campagne pubblicitarie. Adesso le riviste se la contendono. Grace Coddington, direttrice creativa di Vogue, usa per lei queste parole. I'm a big Natalia fan. Io sono una grande fan di Natalia. Per me lei è la numero uno. Non solo perché è bellissima, ma perché è anche umile, professionale e dolce. Insomma, Natalia è una vera principessa che sembra uscita da una favola. E una sera, a una cena di gala in cui è stata invitata, incontra anche il suo principe azzurro. Lei indossa un abito lungo che lascia le spalle scoperte, ha i capelli raccolti e al collo un piccolo diamante che deve indossare come testimonial e dovrà, come al solito, restituire il giorno dopo. I posti a tavola sono stati assegnati in modo casuale, è una serata di beneficenza e non conosce nessuno. Davanti a lei è seduto un bel ragazzo, alto, sguardo che incanta, smoking che rende giustizia al suo fisico statuario. Si chiama Justin Portman ed è un ricchissimo proprietario terriero che viene dalla campagna inglese. L'uomo dei sogni, sotto tutti i punti di vista. Mio marito. Se penso a lui mi emoziono ancora. Non parlavo neanche inglese, ma era così romantico. Fin dal primo incontro abbiamo parlato il linguaggio dell'amore. Tra i due è subito colpo di fulmine. E come in ogni favola, arriva presto il matrimonio, anzi due. Prima nel Regno Unito e poi a San Pietroburgo. Natalia, bellissima e felice, indossa un abito unico, disegnato apposta per lei da Tom Ford. Quasi un simbolo del loro legame. Un regalo che scelgono di farsi l'un l'altro per ringraziarsi di essersi cambiati reciprocamente la vita. Tom Ford, come direttore creativo di Gucci, dà il massimo. E con il rilancio del marchio ha la sua definitiva consacrazione. Ma continua a stupire. Nel 2009 è uscito il suo primo film, A Single Man, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e interpretato da Colin Firth. Un film altamente estetico, presentato a Cannes, e per il quale la critica ha gridato al capolavoro. Natalia, intanto, che oggi non ha ancora 30 anni, continua la sua carriera ed è diventata una delle top più pagate di tutti i tempi. Continua l'idillio anche con il suo principe azzurro, di cui è sempre più innamorata e dal quale ha avuto 3 splendidi bambini. Tom Ford e Natalia Vodianova, un uomo sulla cresta dell'onda, geniale ed eclettico. Una principessa venuta dal freddo che i media adorano perché rappresenta il sogno. Vissero tutti felici e contenti, perché le favole esistono ancora. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.